12 ottobre. Da Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito librivox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Il giornalino di Gian Burrasca. Di Vamba, 12 ottobre. Mio caro giornalino, ho tanto bisogno di sfogarmi con te. Pare impossibile, ma è proprio vero che i ragazzi non vengono al mondo che per fare dei malanni. E sarebbe bene che non ne nascesse più nessuno, così i loro genitori sarebbero contenti. Quante cose mi sono successe ieri, e ne avrei tante da confidarti, giornalino mio. Ma appunto perché ne ho avute tante, non mi è stato possibile scriverle. Ah sì, quante ne ho avute ieri. E anche ora duro fatica a muovermi e non posso stare neppure a sedere a causa di tutte quelle cose che ho detto e che mi ci hanno lasciato, con rispetto parlando, certi vesciconi alti un dito. Ma ho giurato oggi di descrivere il fatto come è andato. E benché soffra tanto a stare a sedere, voglio confidare qui tutte le mie sventure. Ah, giornalino mio, quanto soffro, quanto soffro, e sempre per la verità e per la giustizia. Ti dissi già l'altro giorno che le mie sorelle avevano avuto dalla mamma il permesso di dare una festa da ballo in casa nostra. E non ti so dire come, erano tutte eccitate da questo pensiero. Andavano e venivano per le stanze, bisbigliavano tra loro, sempre tutte affaccendate. Non si pensava né si parlava d'altro. Ieri l'altro, dopo colazione, s'erano riunite in salotto a far la nota degli invitati e parevan tutte al colmo della contentezza. A un tratto, eccoti una grande scampanellata e le mie sorelle, sospendendo la nota degli invitati, si mettono a cinguettare. Chi sarà a quest'ora e che scampanellata? Non può essere che un contadino, certo una persona senza educazione. In quel momento comparisce la Caterina sulla porta esclamando: Ah, signorine, che sorpresa! E dietro di lei eccoti la zia Bettina, proprio la zia Bettina in pelle e in ossa, la zia Bettina che sta in campagna e che viene a trovarci 2 volte l'anno. Le ragazze dissero con un filo di voce: che bella sorpresa! Ma diventarono livide dalla bile. E con la scusa di andare a farle preparare la camera, piantarono la zia con la mamma e andarono a riunirsi nella stanza da lavoro. Io le seguii per godermi la scena. Ah, brutta vecchiaccia, disse Ada con gli occhi pieni di lacrime. E figuriamoci se non si tratterrà, esclamò la Virginia con aria ironica. E come sarà contenta, anzi, di aver l'occasione della festa da ballo per mettersi il suo vestito di seta verde, i suoi guanti gialli di cotone e la cuffietta lilla in capo. Ci farà fare il viso rosso, soggiunse la Luisa disperata. Ah, è impossibile, ecco, io mi vergogno di presentare una zia così ridicola. La zia Bettina è ricca straricca, ma è così antica, poveretta, così antica che pare uscita dall'arca di Noè. Con la differenza che gli animali dell'arca di Noè vennero fuori tutti a coppie e la zia Bettina invece era venuta sola perché non ha mai trovato un cane di marito. Dunque le mie sorelle non volevano che la zia rimanesse alla festa da ballo. E siamo giusti, non avevano forse ragione, povere ragazze. Dopo essersi tanto affaccendate perché la festa riuscisse bene, non era un vero peccato che questa vecchia ridicola venisse a compromettere l'esito della serata. Bisognava salvare la situazione. Bisognava che qualcuno si sacrificasse per la loro felicità. Ah, non è forse una nobile azione per un ragazzo di cuore il sacrificio per la felicità delle sue proprie sorelle? Io avevo il rimorso della vendetta che m'ero già presa di loro con la brutta celia delle fotografie e decisi subito di compensare le vittime con una buona azione. Perciò, ieri l'altro sera, dopo pranzo, presi da parte la zia Bettina e col tono serio che meritava la circostanza le dissi, pigliandole alla larga: Cara zia, vuol fare una cosa gradita alle sue nipoti? Che dici? Le dico questo. Se lei vuol proprio contente le sue nipoti, faccia il piacere di andarsene prima della festa da ballo. Capirà, lei è troppo vecchia e poi si veste in modo troppo ridicolo per queste feste. È naturale che non ce la vogliono. Non dica che gliel'ho detto io, ma dia retta a me. Torni a casa sua lunedì e le sue nipoti gliene saranno infinitamente grate. Ora, domando io, doveva la zia inquietarsi dopo che avevo parlato con tanta franchezza? E doveva, dopo che l'avevo pregata di non dir nulla a nessuno, andare a spifferare ogni cosa a tutti, giurando e spergiurando che la mattina dopo, appena alzata, sarebbe ripartita? E la zia Bettina, infatti, è andata via ieri mattina, facendo il solenne giuramento di non metter mai più piede in casa nostra. Ma questo non è tutto. Pare che il babbo le avesse chiesto in prestito una certa somma di denaro, perché essa gli ha rinfacciato il favore che gli aveva fatto, dicendo che era una vera vergogna il dare le feste da ballo con i quattrini degli altri. Che colpa ne avevo io di questo? Ma al solito la stizza di tutti si è riversata su un povero ragazzo di 9 anni. Non voglio avvilire queste pagine con raccontare quel che ho sofferto. Basti dire che ieri mattina, appena partita la zia Bettina, le persone che più dovrebbero volermi bene in questo mondo mi hanno calato i calzoncini e giù, frustate senza pietà. Ai ai, non posso più stare a sedere. Oltre al dolore c'è anche la preoccupazione per la festa da ballo. I preparativi sono quasi finiti e io non sono punto tranquillo per quell'affare delle fotografie. Basta, Dio ce la mandi buona, giornalino mio, e senza vento. Fine del 12 ottobre.